Non tutti i figli di Dio riconoscono che Gesù Cristo regnerà sulla terra 1000 anni. Da una parte questo è comprensibile perché il terreno delle profezie è molto paludoso, tanto da indurre alcuni a sostenere opinioni letteralmente antibibliche. Ma poiché la Scrittura sostiene chiaramente questo periodo, ne parliamo sia per trarne un incoraggiamento sia per ricevere il giusto, severo avvertimento. E nel libro dell'Apocalisse, che troviamo scritto direttamente e indirettamente per 6 volte, che Gesù regnerà 1000 anni. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni, poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni, che sono ai 4 angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Apocalisse 21:8. Secondo questa descrizione, un giorno il diavolo verrà legato per 1000 anni per impedirgli di sedurre le persone, e in quel periodo di 1000 anni, Cristo regnerà sulla tutta la terra. Saranno finalmente così adempiute le centinaia di profezie le quali furono annunciate nel corso dei secoli dai profeti, perché Cristo Gesù è nato per essere re, e come tale lo sarà. È molto difficile pensare che i 1000 anni siano simbolici, perché per forza di cose dovrebbe essere simbolico anche tutto il resto, e cioè che Satana venga legato, che i morti ritornino in vita, che i credenti siano morti causa la loro testimonianza, e infine che alcuni credenti regneranno con Cristo durante il millennio. Che chi ha posto fede in Cristo regni con il suo Salvatore è un fatto assodato in tutta Scrittura. Diversamente, come interpretare certe profezie? Il profeta Zaccaria è alquanto esplicito. Ecco, viene il giorno dell'Eterno. Allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino ad Azzal. Sì, fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzzia, re di Giuda, così l'Eterno, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi saranno con te. Zaccaria 14:1-5. Questa descrizione del ritorno di Cristo fatta circa 300 anni prima della nascita di Gesù è veramente unica. Il profeta Zaccaria ha profetizzato che un giorno Gesù, chiamato Jahakawiyaka, cioè la divinità degli ebrei e dei cristiani, scenderà dal cielo con i suoi santi, cioè la Chiesa, e metterà il piede sul Monte degli Ulivi, il quale si spaccherà in due. Da quel momento, Gesù regnerà su tutto il mondo 1000 anni con la Chiesa. E in questo periodo che Gesù assegnerà ai suoi fedeli il governo delle città di questo mondo, in proporzione alla fedeltà avuta durante la vita terrena. Luca 13. L'Apostolo Paolo espresse questa verità in poche parole. Questa parola è fedele, perché se siamo morti con lui pure vivremo. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. Troppe persone prendono alla leggera la loro esistenza, senza rendersi conto che il tempo che stanno trascorrendo in questa vita condiziona per sempre il loro futuro. Per gli increduli, cioè per coloro che non riconoscono Cristo Gesù quale personale Salvatore e Signore, ci sarà un giudizio, mentre per i figli di Dio fedeli, attivi, fino alla morte ci è la prospettiva di regnare con Cristo. Coloro invece che pur essendo figli di Dio, non rinnegano se stessi, cioè non perdono la loro volontà per amore di Gesù, parteciperanno sempre al regno di Cristo, ma senza regnare, perché Dio non può rinnegare se stesso. Questa vita terrena è un banco di prova per verificare l'idoneità o meno a regnare sotto il governo di Cristo. Un terribile errore di certi credenti è vedere il futuro celeste tutto piatto, in colore uguale per tutti, mentre le prospettive future sono ben altra cosa. Quando la parola di Dio pone certe condizioni per ottenere alcune benedizioni, si riferisce proprio al regno millenniale di Cristo. Infatti, espressioni come «noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma» fino alla fine la fiducia che avevamo al principio, Ebrei 3,14, mettono in evidenza la necessità della perseveranza non tanto per ottenere la salvezza dell'anima, perché altrimenti la salvezza si otterrebbe per opere, ma per poter essere rivestiti di alcune cariche governative nel regno di Cristo. Chi non ha questo insieme di vedute è costretto a non comprendere 5 brani della Scrittura che fanno riferimento ad una vita futura che sarà condizionata dal mo. Il primo di questi brani si trova nella seconda lettera che Paolo scrisse agli abitanti di Corinto. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. 2 Corinzi 5, 9-10. Quando Paolo scrisse noi tutti, non si riferiva a tutti gli uomini ma a tutti i figli di Dio. Quindi, tutti i figli di Dio un giorno dovranno rendere conto del loro comportamento davanti al tribunale di Cristo. Per quale ragione? Lo spiega ancora l'Apostolo Paolo. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento, ed altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco. E il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 10:15. Il tribunale di Cristo è dunque un tribunale di retribuzioni e non di condanna, anche se c'è e chi ne avrà una perdita. Cosa voleva intendere Paolo quando parlava di perdita o, come dicono altre traduzioni, ne avrà un danno? Paolo lo ha spiegato nella seconda lettera ai Corinzi. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. 2 Corinzi 5, 1-3. Dunque, alcuni credenti in Cristo durante il regno millenniale saranno trovati nudi, cioè spogli di buone opere di perseveranza e di amore. E non solo. L'Apostolo Giovanni esprime questa verità sotto un altro punto di vista. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui, affinché, quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. 1 Giovanni 2,28. Il credente in Cristo Gesù che non ha perseverato fino alla fine al ritorno di Cristo, si vergognerà, o sarà svergognato, per non aver consacrato la sua vita al suo Salvatore. Quando i credenti fedeli otterranno le loro corone, quando i figli di Dio saranno premiati. Davanti ad una innumerevole folla gloriosa, cosa faranno coloro che non otterranno corone e troni, nei quali regnare per 1000 anni con Cristo? La loro confusione sarà grande. Ecco perché sempre l'Apostolo Giovanni ordina ai credenti nella sua seconda lettera: fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. 2 Giovanni 8. Il monito di Giovanni è molto serio e importante. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute. Com'è brutto perdere ciò che si ha. È come un uomo che ha lavorato tutta una vita per costruirsi una grande casa e poi, una sera per una scommessa, ha perso ogni cosa. Ha lavorato tutta la vita per nulla. Ha sprecato ogni sua energia, tempo, denaro per poi ritrovarsi alla fine con niente in mano. Terribile. Terribile come un figlio di Dio che ha lavorato nel regno di Cristo, ha dedicato tempo e fatica per le cose future, e poi scoprire con grande delusione che non vi è ricompensa perché tutto ciò che aveva fatto per Cristo era solo formalità, erano i suoi istinti umani che lo hanno indotto a dedicarsi nella vigna di Dio. Il regno millenniale di Cristo rivelerà il valore delle opere di ogni figlio di Dio. Non ci saranno errori. Non ci saranno sviste. Come alcuni perduti avranno qualcosa da ridire sulla loro condanna, Matteo 25:44, così forse anche alcuni credenti avranno qualcosa da ridire sul giudizio emesso su di loro, ma Cristo il giusto giudice darà senza ombra di dubbio la giusta retribuzione ad ognuno. Colui che regnerà con Cristo 1000 anni è colui il quale avrà lasciato a Cristo il regno nel corso della sua vita. Non vale la pena sottomettere spontaneamente ora la nostra volontà a quella di Cristo? Novembre 2005. Ellero,